sempre mi unisca amante e fede. Griselda, ahimè, con sé suave affetto vai consorte lo sposo, con sé onesto rispetto vieni amico in terreggia. E questa dendi me ne una fede dell'ospizio la legge. Nel dì delle tue nozze, nel suo stesso soggiorno, un marito non ami, un re non temi, o indegni affetti, o vilipendi estremi. Esera, quale consiglio? Ai sospiri, ai dipianti, onesta moglie, non ha cor, non ha voti che per lo sposo. All'onor suo fa macchia anche l'ombra leggera, anche il pensier fugace. Sappia noi un re, l'offende chi le grandi onde sue. Simula e tace!